Bacio a cuore, bacio a fiore, bacio bello non fa male. E la bua prende il tè e lontano è via da te. Bacio a stella luminosa, bacio dolce di una rosa. E la bua beve caffè e lontano è via da te. Bacio grande di sorriso, bacio tutto sul tuo viso. Ed in fretta un, due, tre, e la bua più non c'è. Bacio bua, bacio bua, bacio bua.